muove un lampo, arresta il passo. Ah, son scoperta! A certa morte passi per l'infausto sentier. Tema il mio cuore! Se certa è morte, allora virtù è il timore. Tu, bella, che lo puoi, tu lo distorna. Parlava appunto! A favellarli torna! Egli ti invidia un glorioso acquisto. Odimi assolvo, io vedo dove tolga di mira il tuo disegno. Non provocarmi il segno, il mio gioire è il trovar sempre nuovi e nuovi mostri, onde il valor del mio rancore un mostri. Che di mostri favella? Non so, confusa io sono. Il passo arresta. Tanto odi, egli si adira. Io dall'insana impresa il distorrò, fanne! Confido in quel poter che sopra i voler suoi ha il fulgido sere degli occhi tuoi.